9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, eccoci tornati in studio. Oscar Giannino torna a farvi riflettere sul punto della giornata, dal centro della nostra trasmissione quantomeno, per chiedervi poi di telefonare all'800 24 00 24. Ecco, noi facciamo delle riflessioni con i nostri ospiti che procedo subito a presentarvi. È collegato con noi, e lo ringraziamo di questo, innanzitutto Luciano Violante, buongiorno. Buongiorno. Luciano Violante non ha molto bisogno di parole, insomma è un esperto del diritto, per così dire, perché è un professore ordinario dell'istituzione di diritto e procedura penale a Camerino, è stato magistrato, è stato, dopo essere stato magistrato, impegnato in lunghi anni di milizia politica a sinistra, e oggi ci interessa proprio la sua opinione in quanto uomo del diritto, uomo che ha operato per la giustizia, uomo che ha operato nelle istituzioni, depositario di una visione anche, diciamo, di parte, ma di una parte molto rilevante nella storia politica italiana, e gli abbiamo giustapposto, per così dire, Marcello Veneziani. Buongiorno Veneziani. Buongiorno. Che è uno scrittore, giornalista, saggista di punto di vista, di visione diverso, per così dire, scrive su Libero e su Panorama, e queste due voci per che cosa? Per riflettere insieme su un filo rosso che a mio giudizio unisce alcuni saggi che sono nelle librerie in queste settimane, potete trovarli, di autori diciamo rappresentanti di filoni di pensiero della sinistra. Massimo Salvadori è uno storico di gran nome e di grande rilievo nella storiografia italiana. Massimo Salvadori ha appena pubblicato questo libro, Democrazia senza democrazia, nella collana Anticorpi di La Terza. E poi Luciano Canfora, diciamo di sinistra più antagonista, un grande cultore delle lettere classiche, della storia classica, della esegesi, della filologia, delle fonti del pensiero classico, che ha scritto quest'altro libro nella stessa collana, Anticorpi, e non a caso questa collana ha un titolo che induce i lettori a riflettere, per così dire, in maniera antitetica rispetto al mainstream, ai luoghi comuni. Il titolo di questo libro è La natura del potere, sempre La Terza, e la sintesi di questi due libri, se dovessi esprimerla io, una sintesi di parte, è questa. La democrazia oggi è una grande trappola, una grande illusione, la democrazia rappresentativa, soprattutto in Italia ma in tutto l'Occidente. In definitiva, forse non avevano tutti i torti gli elitisti di fine 800, inizio 900, che però erano tutti di destra, come Michels, Pareto, i grandi appartenenti alla scuola di scienza politica, perché e soprattutto il grande potere finanziario nazionale e internazionale, soprattutto quello americano, ha a detenere il grande potere che indirizza gli affari, e in definitiva forse non aveva tutti i torti Platone, che invitava a riflettere sui limiti della democrazia rappresentativa. Quindi c'è un elitismo di sinistra, e questa la delusione per il fatto che poi si perdono le elezioni, o c'è qualcosa di più profondo davvero sulla scarsa incisività dei meccanismi rappresentativi? Aveva ragione Hayek, che ci invitava ad assemblee rappresentative elette col criterio della scelta casuale per diverse classi di età invece che col voto? Ecco, questi interrogativi un po' buttati lì a caso, voi chiamate per chiedervi se sia semplice delusione di aver perso le elezioni a far diffidare del voto, o se davvero il suffragio universale è un lusso che non ci possiamo permettere. Iniziamo il confronto tra i nostri ospiti. Luciano Violante, che dice? Sono stato un po' troppo forse provocatorio nel dare la sintesi di questi libri, ma questo filone, la delusione verso la democrazia rappresentativa, quanto è importante nel pensiero della sinistra? Ma io credo che la provocazione molto spesso fa parte del suo bagaglio di interlocutore, quindi è molto importante e utile. Dunque, io credo che c'è certamente una crisi della democrazia classica, di quella che conosciamo leggendo i manuali o anche guardando le carte costituzionali del secondo dopoguerra. In ogni caso, ho l'impressione che tanto il libro di Salvadori quanto quello di Canfora, quanto per altri aspetti la raccolta di articoli che ha pubblicato Sartori nel libro Sultanato, fanno riferimento ad una situazione, come dire, senza prospettiva, sia tutti e tre. Il libro di Sartori riguarda più la situazione italiana, gli altri due sono riflessioni più di carattere generale. In quello di Salvadori c'è in particolare una critica abbastanza dura alla situazione del sistema americano. Io qui direi questo: guardi, il problema non è tanto di piangersi addosso sulla crisi della democrazia, ma di vedere come in un mondo globalizzato, in un mondo in cui il governo dell'economia sfugge agli stati nazionali, a meno che non ci sia situazioni di crisi come oggi, ma quando la crisi sarà superata l'economia tornerà a essere globalizzata, gli stati nazionali torneranno a essere nell'angolo rispetto ai processi economici. Ecco, che cosa bisogna fare per mantenere alcuni assunti fondamentali della democrazia? Garanzia dei diritti fondamentali, equa distribuzione delle risorse finanziarie ed economiche, e evitare che un potere prevalga in modo assoluto sugli altri e sui diritti dei cittadini. Quindi io piuttosto rifletterei su come nella situazione attuale si possono garantire alcuni caratteri di fondo della democrazia. Non mi convince, finisco, una critica così dura al sistema americano, dove c'è una forte mobilità sociale, c'è una notevole indipendenza dei mezzi di informazione e c'è una notevole indipendenza della Corte Suprema, che è un punto di garanzia e di equilibrio complessivo del rapporto tra i poteri negli Stati Uniti. Quindi io dico questo sinteticamente: guardiamo come nelle attuali condizioni si salvaguardano i caratteri della democrazia piuttosto che piangere su quello che non c'è più. Sono molto d'accordo sulle parole di Violante conclusive. Il modello americano in realtà è checks and balances, come si suol dire, cioè i contrappesi molto forti: il Parlamento è forte, la Corte Suprema è forte, i corpi intermedi sono in grado di esercitare autodifesa, per così dire, molto forte. Ma sentiamo l'opinione di Marcello Veneziano. Questi elitisti di sinistra si riavvicinano a un filone di pensiero tradizionale di una parte della destra nella politologia italiana, o è delusione elettorale? Ma io credo che si avvicinino poco a dei filoni culturali storici come quelli appunto dei teorici dell'elite. Credo che entrino in un fenomeno che è occidentale, che non è soltanto italiano, e che fu descritto già una quindicina d'anni fa da Christopher Lash parlando del sistema americano, in cui notava che le elite sono tendenzialmente liberal, progressiste, insomma di sinistra, e viceversa c'è una connotazione popolare, a volte populista, che premia invece leader, forze che hanno un'estrazione conservatrice, insomma di destra in senso lato. Quindi questo è il fenomeno generale. Nel caso italiano specifico c'è indubbiamente come valore aggiunto anche l'effetto delusione. Ogni volta che la sinistra ha perso le elezioni in Italia è riaffiorato questo disgusto per tutto ciò che ha connotazioni popolari, la televisione ritenuta da Bobbio naturaliter di destra, la democrazia vista come una degenerazione del cesarismo, del populismo nel nostro sistema. Insomma, c'è sempre questa diffidenza. Credo che noi dobbiamo accettare l'idea che la democrazia è, come dire, un fragile corridoio tra le oligarchie e il populismo, cioè rischia di sbandare ora dall'una ora dall'altra parte, e quindi è un po' difficile tenerla così in piedi. Ma credo che più vastamente, accanto al tema della crisi della democrazia e le cose anche molto lucide che ha detto Luciano Violante, ci sia da aggiungere il problema del tramonto della politica, o perlomeno della grave crisi della politica, cioè quando la politica non è più al centro del discorso pubblico, quando interessi economici, finanziari o procedure tecniche prevalgono sulla politica, allora il terreno della democrazia un po' si restringe. Quindi è curioso certo notare studiosi come Luciano Canfora, che da anni ormai sostengono, pur definendosi ancora comuniste, posizioni fondamentalmente oligarchiche, di pura diffidenza nei confronti non solo della democrazia, diciamo così, populista, ma della democrazia rappresentativa tout court. Ma bisogna notare che appunto questo fenomeno non è soltanto un fenomeno italiano. Quindi crisi anche della politica in quanto tale. Iniziamo a sentire alcuni ascoltatori. Abbiamo Fernando da Ferrara. Sì. Prego, dica. No, io penso che il problema sia generale, visto l'afflusso dei cittadini al voto anche in altri paesi, che sta crescendo enormemente anche in Italia, ma il problema più grande che abbiamo in Italia è il fatto che la Costituzione dice una cosa e i maggiori partiti si sono invece accordati che il voto non deve essere né uguale, né segreto, né libero. E questo è un bel problemino per la democrazia. Lei dice i meccanismi con cui, insomma, alla fine ci esprimiamo, penso anche alla legge elettorale, sono meccanismi un pochino singolari. Ecco, abbiamo Michele da Bergamo. Buongiorno. Prego. Volevo fare una riflessione su quella che è la differenza tra dei nuovi mezzi, la rete, internet, che gli elettori hanno oggi per informarsi oggettivamente, per risalire alle fonti, e dall'altra parte mi sembra di notare che le informazioni e viene stimolata la parte emozionale dell'elettore. L'elettore, molte della base elettorale riceve le informazioni o non voglia approfondire o faccia fatica ad approfondire, andare alle fonti, andare ai contenuti per farsi un'idea, e quindi si fa appello sempre di più alla parte emozionale a cui si chiede di votare, e quindi la personalità del candidato, tutto ciò che non riguarda il suo programma politico. È chiarissimo, però devo far notare che proprio questo aspetto, cioè la presa emotiva della personalizzazione della politica, è un aspetto classico dei meccanismi della scelta dei leader democratici e anche di coloro che poi ne formano i partiti. La troviamo addirittura descritta nella letteratura classica, quella dell'Atene del V secolo e del IV secolo, e veniva criticata allora da chi preferiva sistemi oligarchici a una vasta partecipazione all'Atene di quel tempo, proprio sulla base del fatto che era troppo facile per i retori e i demagoghi nelle assemblee acchiapparsi e conquistarsi il consenso della gente. Quindi vede, cambiano i mezzi di informazione, ma le tecniche poi alla fine sono molto simili, ed è su queste tecniche vecchie e nuove intrecciate che Canfora e Salvadori riflettono, arrivando a una conclusione che per certi versi è molto singolare. Violante, accetta un secondo di fare una domanda interna alla storia, all'evoluzione del pensiero della sinistra. Il problema non è anche un pochino questo? In definitiva, il marxismo non si medesimava mai con la democrazia rappresentativa classicamente associata al sistema liberal-democratico borghese. In definitiva lo ha vissuto come un passaggio necessario quando le masse hanno fatto irruzione nella politica all'inizio del Novecento. È la storia dei grandi partiti socialisti, dei grandi partiti comunisti nel nostro paese. Poi di fronte a questo c'è un superamento che in realtà però è da sempre nel DNA di chi è convinto di una tesi storica marxista. E se uno dovesse rimanere in questo percorso di lettura oggi, dal punto di vista dell'ortodossia marxista, per così dire, ma non le chiedo questo, le chiedo dal punto di vista dell'evoluzione di quel filone di pensiero politico, che tipo di sistema diventa il riferimento per governare una società complessa, post-industriale, con così tante voci, che si deve aprire alla rappresentanza anche di cittadinanze e di culture, di religioni diverse? Il cuore del sistema rappresentativo, per chi viene da un percorso marxista, come si cambia se si vuole restare più o meno fedeli a quella tradizione facendola evolvere? Beh, io ho letto più Gramsci che Marx, devo dire, quindi sono poco credibile come interprete marxista, non mi metto assolutamente in questi panni, non è il mio campo. Ma il problema è rendersi conto che gli antichi modelli della democrazia si muovevano in un mondo semplice, con pochi soggetti che intervenivano. Oggi il mondo in cui la democrazia si muove è molto più complicato. E devo dire, faccio una riflessione l'altro giorno di questo tipo: come mai oggi in Parlamento, parlo dell'Italia, ci sono più giornalisti e addetti stampa che filosofi storici? Perché, io questa è la mia risposta, spero di non sbagliare molto, perché interessa il tempo breve, interessa la dichiarazione del telegiornale delle 20, non interessa il tempo medio. Questo è uno dei dati di fine di crisi della politica, la riflessione, se non ho capito male, faceva Veneziani prima. C'è una grande crisi della politica determinata dal fatto che la politica ha perso il controllo dei mezzi economici. Primo, promette cose che non riesce a mantenere, deve ridiscutere complessivamente se stessa e deve ridarsi, a mio avviso, un rapporto con la cultura che oggi è completamente finito, non c'è tanto a destra quanto a sinistra, e darsi un'azione ai tempi medi. Se torniamo, come dire, a una politica capace di pensare nei tempi medi, capace di rilasciare un rapporto con la cultura e capace di garantire l'indipendenza dei mezzi di informazione, l'indipendenza degli strumenti di controllo e così via, io credo che si può riavviare una fase nuova della democrazia e della politica, altrimenti francamente la vedete grigia. I vecchi criteri, è verissimo quello che diceva lei e che diceva anche, se non ho capito male, Veneziani, cioè c'è certamente un elitarismo tanto a sinistra quanto a destra, il pensarsi come elite superiori, e anzi il più che condannare il presente invece di capire come quei valori della democrazia possono vivere nel presente, questo tipo di ragionamento c'è tanto a destra quanto a sinistra, però mi pare che sia importante che noi oggi riflettiamo un tanto su questo. Lei ha fatto riferimento alla derisione elettorale, può darsi sia anche quello, ma guardi che queste riflessioni vanno avanti da circa 30 anni in tutto quanto il mondo. E parlo di Salvador in particolare, anche Canfora, queste riflessioni non le fanno da oggi. Verissimo, quindi, verissimo, certo. Io scinderei, come dire, le cose. È troppo importante questo discorso per legarlo ad uno sconforto elettorale. No, anche perché poi questo discorso va solidamente innestato in una crisi della politica, che poi è la crisi che scoppia, diventa evidente di fronte a questa crisi economica e finanziaria. C'è davvero un problema di interpretazione, di capacità della politica, di fenomeni economici in scala così globale, il cui governo, la cui forma, determinazione ed espressione oramai lontano anni luce dalla politica, era altrove. L'America era la rappresentazione delle grandi banche che avevano catturato il regolatore. Da 15 anni i regolatori dei mercati finanziari e bancari americani erano tutti espressione delle banche di investimento, tanto che al potere fossero i democratici quanto i repubblicani. Veneziani, ha sentito Violante, però anche a destra, quando c'è stato anni fa l'inizio del centrodestra, della Forza Italia, di queste nuove espressioni politiche della Seconda Repubblica, una leva di storici, erano storici che venivano dalle delusioni dall'uscita del Partito Comunista a metà degli anni 50, 56, eccetera, eccetera, portati in Parlamento, non più rieletti, anche a destra c'è un problema di questo tipo. Sì, anche perché furono, come dire, in qualche modo investiti di candidatura per una funzione più ornamentale, perché non è che fossero stati poi utilizzati a livello di un'elaborazione politica, cioè servivano un po' come fiori all'occhiello, come ciliegine sulla torta, quindi non hanno avuto una funzione strutturale all'interno della politica. Ma io non sono d'accordo con quel che diceva l'ascoltatore prima a proposito del tratto emozionale della politica di oggi. La politica è sempre stata fondata sulle emozioni, anche quella con grandi passioni ideologiche si è fondata sull'emozione, le grandi monarchie hanno sempre inscenato la rappresentazione del potere attraverso una liturgia, un rito. Quel che oggi manca alla politica è, da una parte, come dire, la impossibilità di assumere grandi decisioni, perché oggi i luoghi della decisione si sono trasferiti altrove. Se noi pensiamo agli stati nazionali e alle sovranità nazionali, pensiamo che il 70-80% delle decisioni non sono altro che la ripetizione e l'inveramento di leggi e direttive europee. A questo poi si aggiungono appunto trend internazionali, poteri economici transnazionali che in fondo determinano l'agenda dei governi, e quindi questo indubbiamente restringe il potere della politica. E dall'altra parte credo che la politica, nel caso specifico italiano, si sia impoverita anche perché ha perso le due tradizionali fonti di rappresentanza nel nostro paese, quella clientelare e quella ideologica. La politica oggi può promettere poco a livello personale, le famose assunzioni di un tempo, eccetera, e dall'altra parte esprime poco a livelli di appartenenza e quindi a livelli di identità collettive. Questo riguarda tanto il centrodestra quanto il centrosinistra. E credo che a questo punto, come surrogato di tutto questo, venga fuori la personalizzazione della politica, l'americanizzazione della politica, il forte impatto che ha appunto un leader che può slogan, ma questo implica un impoverimento della politica, perché è una riduzione della politica a pura, cioè a pura rappresentazione, e questo dice molto della crisi della politica, del vuoto della politica e della impossibilità di rigenerarsi. Poi, se a questo aggiungiamo i meccanismi elettorali prescelti, il senso di oligarchia chiusa che si copre al proprio interno, abbiamo un'idea appunto di una distanza ancora più acuita tra i cittadini e le istituzioni. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino, sul tema riflettiamo sui limiti della democrazia, soprattutto quella rappresentativa, il vero potere forse altrove, tutte le elezioni non sono che tornei in grado di non farci mai identificare chi sceglie davvero le cose serie, con riflessioni soprattutto di storici, politologi della sinistra, quindi la delusione della sinistra sulla democrazia rappresentativa. Andiamo con alcuni ascoltatori, iniziamo con Luciano da Rimini. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo dire semplicemente questo, che qui la democrazia c'è, ma non c'è tanta libertà. Perché... Pronto? Sì, dica. Ah, non c'è tanta libertà perché praticamente noi votiamo dei parlamentari che poi dopo vanno su, hanno il voto segreto, votano la fiducia a un coso. Se uno non è d'accordo non la vota, perché deve cadere il governo? Perché non la vota. Allora praticamente non è una democrazia, è una dittatura, la dittatura del governo, che dice ai parlamentari: o andiamo a caso, stai qui, Poi dopo esiste il referendum propositivo che nessuno lo mette in attuazione. Le regole non le fanno, sono i cittadini che devono fare le leggi praticamente, no? Se vogliono, non le possono fare perché quello non c'è. Quell'altro, a quello abrogativo, ci hanno messo un quorum, che uno paga per farlo e poi dopo non serve niente. Cioè io non lo so. Penso capisco, che basti, capisco però, Luciano, mette un po' insieme questioni di ordine diverso, per così dire, tenga conto che nell'ordinamento italiano abbiamo faticato molto a raggiungere una consapevolezza che il potere del governo, diciamo, non è troppo forte, è un pochino troppo debole, poi magari poco anche bilanciato, ma è troppo debole rispetto alla titolarità dell'agenda in Parlamento. Lei ci dice invece che è troppo forte, comunque rispettiamo anche la sua opinione. Sentiamo Raffaele, Raffaele da Milano. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La crisi del sistema democratico rappresentativo non si esplicita semplicemente per la totale mancanza di rappresentatività della classe politica, cioè per un assoluto fraintendimento del mandato e per la mancanza totale di possibilità di controllo del mandato da parte degli elettori. Secondo me si conclama un altro grossissimo problema, che la democrazia, a mio avviso, è ancorata ad un'espressione consapevole del voto, e il voto, a mio avviso, qui diventa sempre meno consapevole. Manca oggi come oggi una pubblica opinione. La pubblica opinione, a mio avviso, è completamente scomparsa. Esiste un'opinione indotta. La questione non è emotiva, a mio avviso, come diceva l'ascoltatore che ne parlava prima. Qui la questione è invece, secondo me, scientifica. C'è una volontà ponderata di modulare l'opinione del pubblico, e quindi non esiste più un'opinione libera, indipendente, individuale. E questo è il vero problema. Da un lato c'è una classe politica, e con questo concludo, che fa di tutto per continuare a mantenersi violante, sa molto bene quello che sta accadendo adesso, per esempio, nel Partito Democratico, perché adesso noi andremo a fare delle primarie per determinare il candidato alla segreteria. È matematico che, essendoci tre candidati, non ci sarà il 51%, e secondo le regole statutarie del Partito Democratico saranno di nuovo i politici a determinare chi sarà il segretario del Partito Democratico. Quindi questo comunque è un dato di fatto acquisito, lo sanno tutti che i politici desiderano sopravvivere a se stessi, non è più messo in discussione da nessuno, nemmeno da loro stessi. Ringrazio Raffaele, tenderei a stare non sulle vite interne dei partiti, però a stare sul meccanismo rappresentativo delle istituzioni. Violante, facciamo una riflessione un secondo su dopo crisi finanziaria, quello che ci consegna in termini di richiamata generale della politica, le sue responsabilità di scegliere, riregolare, reintervenire per impadronirsi di alcuni fondamenti per garantire la stabilità anche al mercato. Io sono a favore del mercato, ma sono il primo a sostenere questa necessità. Ecco, in questo quadro generale, che è un quadro generale che investe tutto il mondo avanzato, l'Occidente, in una prospettiva per la prima volta globale. La domanda è, purtroppo non sono ancora una volta i tecnici, i depositari della tecne, quella che tanto poi diventa inequivocabilmente sempre oligarchica, perché i tecnici sono quelli che non si possono scegliere, sono depositari di un pensiero di cui c'è bisogno e di cui non si può fare a meno, ma non sono proprio loro ancora una volta a rischiare di dettare l'agenda e di dire ai governi, a quello americano per la riregolazione delle banche americane, come nei consessi come il Financial Stability Board, dove ci sono banchieri, i regolatori, a dire a tutti i governi dell'Occidente: bene, fate questo e quello e non fate più questo e quell'altro. E quindi il monopolio della tecnica, in che chiave si può ricondurre a una ripresa da parte della politica di una solida agenda, con quella prospettiva culturale che lei diceva prima? Beh, innanzitutto le competenze specialistiche, quelle che lei giustamente chiama le competenze dei tecnici, sono essenziali per fare delle buone scelte politiche. Il politico non è che può sapere tutto. Deve avere davanti a sé diverse soluzioni proposte da chi conosce i problemi, quindi dagli specialisti e dai tecnici, e scegliere con la propria responsabilità tra le varie soluzioni proposte. Quindi io non ho nulla contro gli specialisti tecnici. Sta di fatto che è chiaro che la politica non deve delegare al tecnico la risoluzione, deve dire al tecnico: dimmi quali sono le cose che vanno fatte in questo momento, che cosa bisogna fare, poi deciderà lui, chiedendo le spiegazioni necessarie, che cosa è più utile fare. Io credo che la crisi sta riproponendo la forza della politica in questa fase. Non credo che accadrà all'Aquila, quello che si capisce, credo che accadrà a Pittsburgh a settembre, il vertice del G20, lì ci sarà la definizione, credo, di nuove regole per la finanza globale. Non so se ci riusciranno, non so quanto quelle regole saranno osservate effettivamente, ma certamente siamo in una fase nella quale la crisi finanziaria sta riproponendo la forza della politica. Non so se poi, quando la crisi sarà superata, torneremo indietro, ma credo che bisognerebbe approfittare di questa fase per ridefinire alcuni contenuti della democrazia nell'attuale momento storico. Io credo che Marcello Veneziani abbia perfettamente d'accordo quando fa riferimento alla crisi dell'appartenenza. E questa, un segno di questa crisi è stato che tanto a destra quanto a sinistra ci si coagula più contro il nemico che per i propri valori, i propri ideali. Questo accade nel PDL, accade nel PD, accade nella Lega, ognuno ha un nemico e attorno a questo nemico si crea un'aggregazione. Naturalmente questa forma di appartenenza, un'appartenenza direi malata, perché non è un'appartenenza per fare qualcosa, per realizzare un obiettivo, per rendere più forti alcuni ideali, ma è un'appartenenza per buttare giù l'altro. E io credo che questo sia un dato sbagliato, l'antiberlusconismo per un verso, i richiami costanti ai mali della sinistra che si fa destra, la Lega che c'ha l'immigrato come nemico tipo e così via. Devo dire che questo è un modo malato di affrontare il tema dell'appartenenza. L'appartenenza si costruisce sulla base della condivisione di obiettivi e di valori, e però qui una politica debole come quella attuale non riesce, almeno lo Stato, a proporre né obiettivi né valori. Questo è il problema che abbiamo davanti, però non basta, ripeto, piangersi addosso, bisogna vedere come si ripropongono obiettivi e valori in questa fase. Io sarei meno ottimista rispetto a Violante sul fatto che veramente la politica si sta rimpossessando dell'agenda. Constato anch'io, ovviamente, che da settembre del 2008, dall'esplosione di Lehman Brothers, è tutto un gran parlare e torniamo a nuovi standard generali di indirizzo e di regolazione dei mercati, della supervisione degli intermediari finanziari, di come si fanno i criteri contabili. Per carità, il Lecce Framework, come si chiama il Global Legal Standard di cui dice Tremonti, penso anch'io che al G8 di qua non si adotterà quasi niente e forse accadrà qualcosa a Pittsburgh al G20, ma un'impressione mia è che al di là di tutte queste parole, buone intenzioni della politica, in realtà andiamo a vedere, in America le grandi banche sono abbastanza soddisfatte dello schema regolatorio presentato dall'amministrazione Obama, tutto sommato perché non vengono toccate quasi niente l'organizzazione dei poteri precedenti. In Europa molte chiacchiere, ma non è ancora cambiato niente sulla supervisione delle banche trasfrontaliere europee, nessun altro dei tanti principi messi in luce e andati in crisi con l'esplosione della crisi finanziaria con Lehman Brothers. Veneziani, lei è convinto davvero che la politica si stia rimpadronendo di qualcosa? No, io temo di no. Purtroppo ho una visione più pessimistica della politica. Credo che la politica continui ancora, come dire, a lavorare ai margini e credo che la perdita delle appartenenze sia indubbiamente un fatto, ma credo che ancora peggio sia la perdita dei luoghi della decisione, cioè la impossibilità di decidere realmente, non ne hanno la forza, la capacità, la durata i soggetti della politica, e quindi questo configura una politica piuttosto debole. Io devo dire, non credo alle visioni utopistiche della democrazia come quelle che sono affiorate da alcuni ascoltatori che appunto ritenevano che si dovesse ridare, come dire, la sovranità al popolo. Non sono mai esistite democrazie come governo del popolo. Le democrazie buone sono quelle di governo dei pochi nell'interesse dei molti, che sono poi controllate con il voto dai molti, ma che non sono mai guidate dalle maggioranze, e quindi è inutile, diciamo, accennare a questo. Vero è che la politica oggi si riduce, come dice Luciano Violante, alla coagulazione intorno al nemico, contro il nemico, ma è anche vero che è una delle categorie classiche della politica. Secondo Carl Schmitt la politica nasce a partire dalla designazione del nemico e quindi diventa quasi come dire una logica difensiva. Non è bello ricordarlo, ma purtroppo fa parte delle leggi reali della politica. Credo che la politica oggi conti di meno, perché in effetti i processi tecnici, decisionali, le procedure sono state in qualche modo sterilizzate, cioè non hanno più una valenza o un valore politico, sono procedure quasi automatiche che vanno compiute perché vanno compiute, senza porsi ragione. Credo viceversa che, come dire, un governo saggio dovrebbe fondarsi su tre cardini: sull'esperienza, la maggioranza e la competenza. Cioè l'esperienza nel senso della tradizione di un paese, la maggioranza nel senso del voto democratico e la competenza nel senso dell'elite, dei tecnici, degli esperti che decidono. Ecco, se uno solo di questi fattori prevale sugli altri due e li nega, li contraddice, non siamo in presenza di una democrazia ma di una degenerazione, e credo che i processi democratici a cui noi assistiamo in Italia e non solo siano proprio di questo tipo. Ecco perché, appunto, tornando alla domanda, non vedo, non scorgo segni di rinascita della politica, alcuni segni di una lunga eutanasia. Alcune voci, opinioni dei nostri ascoltatori. Fabio da Roma, rapido. Sì, salve. Io, proprio riguardo a questo che sta dicendo adesso Veneziani, gli vorrei domandare proprio a lui se non pensa che questa politica veramente è sempre una livellazione verso il basso, cioè sempre messaggi di prostitute, di condoni fiscali, di condoni tombali, di condoni edilizi, di scudi fiscali, eccetera, eccetera, eccetera, cioè sempre un messaggio verso il basso, un livellamento verso il basso. Ma non bisognerebbe ricominciare proprio da lì, egregio dottor Veneziani? Eccoci tornati qua in studio, Oscar Giannino, e che passa subito la linea agli ascoltatori. Ci stiamo interrogando oggi sui limiti della democrazia rappresentativa, le critiche che la democrazia vengono sempre più forti da intellettuali, storici, filosofi della sinistra. Abbiamo in linea Giovanni da Milano, prego Giovanni. Buongiorno a tutti. Oimè, abbiamo problemi sulla linea, ci pare di capire. Ci dica. Buongiorno a tutti. Che il problema, mi sentite? Sì, vada. Ah, mi chiedo scusa. Io credo che il problema vada affrontato osservando la società nella sua oggettività, cioè siamo nella società della informazione, ma anche siamo nella knowledge society, cioè nella società della conoscenza. Quindi gli strumenti che si davano un tempo per conoscere e per affrontare i problemi sono, sì, in sintesi, oggi l'elettore deve disporre di tutta una serie di strumenti che fanno sì che il suffragio universale diventi un'utopia. Nella società della conoscenza non possiamo più metterci ad arrivare al confronto elettorale impreparati. In questo senso forse c'è una crisi della democrazia. Non mi è molto chiaro, a dire la verità, quello che dice Giovanni. Ho capito, siamo nella società della conoscenza, benissimo, questo significa che però il suffragio universale è un'utopia, ma non lo so, lei, io capisco solo che siamo più impreparati. Detto questo, sa, io posso essere preparato o meno, mi trovo di fronte a una lista di candidati scelti in un ordine in cui io non posso modificare quasi nulla, questa è la mia obiezione, io per questo questa legge elettorale voglio abolirla, lo dichiaro, anche se faccio qui adesso il moderatore, però c'entra poco quanto è preparato Oscar Giannino rispetto al fatto che il voto di Oscar Giannino sposta quasi niente. Può spostare un campo o l'altro, tranne il fatto che un campo e l'altro, di fronte ad alcuni meccanismi di fondo, per esempio contano di più le banche o la politica su questo, da una parte e dall'altra, non è capace di incidere, perché contano più le banche, in Italia come nel mondo. Questa è la mia, scusi l'obiezione un po' radicale. Giorgio da Firenze, prego Giorgio. Sì, buongiorno. Io volevo osservare in premessa che a scanso di perfezionismi, in fondo anche il governo di ciascuno di noi sulla propria vita è sempre piuttosto relativo, e così a maggior ragione è comprensibile che anche il governo della società e del mondo sarà sempre, insomma, un tentativo che avrà maggiore o minore successo. Detto questo, volevo far notare che la democrazia, il concetto di democrazia, ha molti tratti, come un ritratto, insomma, molti elementi, e probabilmente bisognerebbe vedere quali elementi hanno un'involuzione o sono in difficoltà e quali elementi hanno invece un'evoluzione positiva. Per esempio, prima nella vita di partito c'era andare nella sezione, fare un certo iter, farsi valere era piuttosto difficile, mi sembra che prima i partiti fossero più verticistici. Oggi con lei trova che i partiti un tempo erano più verticistici? cioè nel senso che la, cioè, la ma io trovo che io non voglio difendere i vecchi partiti, io ho aderito per lunghissimi anni a un partito di quelli appunto vecchi, però c'era una lunga militanza dal basso, si selezionava, potevano essere discutibili criteri con i diversi livelli amministrativi, ma insomma c'era una partecipazione, congressi veri, regole un pochino più diciamo trasparenti e partecipative, e non le sto idealizzando, ma c'erano rispetto a quelle di oggi. Oggi sono scatole personalistiche, partite scelte con lo stesso criterio con cui si sceglie il Parlamento. Non voglio adesso obiettare a chiunque, quindi do la linea all'ultimo ascoltatore, poi torniamo ai nostri ospiti che hanno opinioni sicuramente più interessanti delle mie. Abbiamo Giuseppe dalla provincia di Frosinone. Salve, buongiorno. Senta, niente, la questione credo che sia abbastanza ampia e da risolvere con quattro parole veramente è difficile. Non c'è dubbio. Penso che prima di tutto ci sia un problema reale, che è quell'obiettivo della situazione di fatto odierna, che è una crisi proprio obiettiva della gioventù nei confronti della politica, un disinteresse sui contenuti, mentre c'è un interesse della politica per quanto riguarda soltanto l'aspetto emozionale, solo esclusivamente l'aspetto emozionale. Va bene l'aspetto emozionale, ma non solamente esclusivo. Allora, la questione è, per risolvere questa cosa, credo che sia ad andare all'origine e quindi all'istruzione, e cercare di formare un po' più i giovani verso un interesse concettuale della politica e non più verso solamente un arrivismo, che è quello che si manifesta oggi. Grazie anche a Giuseppe. E adesso invece concludiamo con i nostri due ospiti, prima Veneziani e poi Violante, e in quest'ultima parte io vi chiedevo di svolgere qualche considerazione in effetti sulla forma che è quella che ha consentito agli italiani di prendere dimestichezza poi con le istituzioni rappresentative e con l'idea stessa di democrazia, cioè i partiti, perché noi abbiamo questa storia, sono stati i partiti a portare le masse nelle istituzioni e a fare dell'Italia un paese davvero condiviso nel secolo scorso, e la crisi dei partiti in larga misura nel nostro paese coincide con la crisi della politica, è la crisi della politica. Nelle vostre militanze, per le vostre evoluzioni che avete alle spalle, per come continuate a concepire il vostro impegno nella militanza politica, ciascuno parli per la propria parte, per favore. Veneziani, si può pensare a segni di rianimazione del partito, della partecipazione attraverso i partiti della vita politica italiana oggi a destra per lei? Ma credo poco a questo, credo poco perché credo che tutte le difficoltà che sono emerse nel corso di questi interventi, dalla personalizzazione della politica al degrado della politica che diventa gossip, agli interessi privati e alla politica puramente commerciale che promette cose, credo che derivino da un effetto come dire, rivoluzionario che si è abbattuto sulla nostra società, e cioè l'inversione della sfera pubblica con la sfera privata. Cioè ormai al centro del pubblico ci sono i fatti privati. E credo che questo sia il problema della politica, che è un problema che rende una difficile compatibilità con la partecipazione a un partito, cioè ci si avvicina alla politica soltanto per istanze di natura privata, si esprime la politica nei modi della vita privata, si giudica un leader dalla vita privata, diciamo la privatizzazione della sfera pubblica è quello che oggi più colpisce, persino gli orientamenti sessuali diventano motivo di divisione politica, quindi credo che sia quello il problema. Se noi viviamo nell'ambito di questa inversione della sfera pubblica che diventa privata e viceversa la sfera privata che si fa pubblica, noi non potremo mai riavere partiti come collettori di popolazioni, perché ognuno si fa il partito a casa sua. Insomma, grazie Veneziani. Piccola... Io devo dare anche gli ultimi tre minuti a Violante. Violante, quanto è forte la delusione per la fine dei vecchi partiti tradizionali, partiti della sinistra, negli intellettuali della sinistra che hanno scritto questi libri? Si può tornare a forme di, tra virgolette, speranza partecipativa nei partiti della sinistra come li vede oggi in Italia? Ma voglio dire, da un dato che è questo: oggi sono 27.000 consiglieri comunali che hanno meno di 35 anni in Italia, e il 75% dei consiglieri comunali dei comuni sotto i 5.000 abitanti, che sono più della metà dei comuni italiani, hanno meno di 35 anni. Scusi, questo dato le do per dire che poi non è così vero che c'è questa grande crisi. Ha ragione. Allora, primo dato. Secondo dato, il problema del partito politico. Io credo questo, che dobbiamo cercare di far funzionare quello che c'è prima di buttarlo via. Il partito politico è un luogo attraverso il quale i cittadini possono partecipare alle grandi scelte che gli interessano. So benissimo che è in crisi tanto a destra quanto a sinistra, però il punto non è di buttarlo via, di vedere che come noi possiamo rianimare e rivitalizzare questo strumento di partecipazione politica. Ecco, io credo che questo deve essere l'obiettivo che ci poniamo davanti. E quanto bisogna battersi, io credo, soprattutto per alcuni valori di fondo. Io credo che uno dei punti che oggi ha portato ad una crisi della democrazia anche, una forma di individualismo anarchico, di relativismo totale, cioè nessuno dice non necessari, non le si dice in famiglia, non le si dice nella società, non le si dice quasi nessuno, tutto è sì. Se tutto è sì, guardi, vince soltanto il più forte, il più aggressivo, il più violento. Bisogna avere la forza e la capacità di dire no nella scuola, nella famiglia e così via. Devo interromperla su questo appello all'ordine e alcuni principi. Cioè la capacità di dire di no. Credo anch'io che in definitiva la democrazia, nella complessità di società così complicate, sia soprattutto l'arte di saper dire dei no, di saper spiegare i no agli elettori. I no fondamentali contano più dei sì. Tutti sono buoni a fare gli elenchi dei sì. Questo che ci ha detto Violante, alla fine secondo me sia a destra che a sinistra, e la capacità elementare di saper di nuovo trasmettere un senso alle istituzioni rappresentative che oggi secondo me ne hanno molto, ma molto poche. Una puntata forse un po' troppo alta e lontana dai temi del giorno, ma ogni tanto bisogna interrogarsi sulle forme generali e le possibilità di dare una mano tutti alla soluzione di un problema politico attraverso le istituzioni. Ringrazio regia Peter Bescapè, i miei bracci destri, conoscete i loro nomi, Gloria Guerrera e Laura Faggin, la linea al giornale radio, appuntamento a domani.